è nato a pochi mesi, un paio di mesi dall'inizio del lockdown, nel senso che abbiamo sentito l'esigenza di creare uno spazio di discussione su quello che stava succedendo, anche considerando che è stata chiara abbastanza presto la percezione che una serie di trasformazioni in atto non sarebbero state soltanto temporanee ed emergenziali, ma sarebbero entrate in qualche modo a pieno regime nell'università, fra tutte evidentemente la didattica a distanza, le piattaforme e così via. Abbiamo portato avanti per tutto l'anno momenti di discussione, di confronto, non soltanto a Bologna ma anche con altre città, e abbiamo provato anche a ragionare sul modo in cui queste trasformazioni in atto si connettono a un più ampio quadro di pianificazione, diciamo così, che è quello che in Italia conosciamo come piano di recupero e resilienza, e a livello europeo tutta una serie di indicazioni politiche che orientano in modo determinante la ricerca attraverso i criteri del suo finanziamento soprattutto. In questo senso ieri, il 24, sarebbe stata prevista una giornata di mobilitazione, una presenza in piazza come abbiamo già fatto a settembre, a giugno, però evidentemente con la situazione della zona rossa non abbiamo ritenuto di farla, ma abbiamo comunque voluto prendere parola intervenendo in qualche modo nella campagna di competizione al rettorato in corso, non tanto per esprimerci sui progetti che sono già in campo delle candidate e dei candidati al rettorato, quanto piuttosto per dire tutta una serie di cose che a noi sembrano fondamentalmente inaggirabili e che non ci sembra siano presenti dentro al dibattito che si muove dentro uno schema che in qualche modo già prefissato, che è quello che alle parole chiave innovazione e resilienza come criteri guida, diciamo così. Resilienza, che è un termine che in qualche modo esprime letteralmente la elasticità, la capacità di adeguamento che è stata chiesta agli individui, che si tratti di docenti, di studenti, studentesse o di precari e precarie della ricerca, per far fronte alla situazione. Resilienza è la capacità di adattamento a condizioni di disuguaglianza che sono state esasperate dalla pandemia e che in qualche modo viene ributtata sulle spalle degli individui, come studentesse e studenti che hanno dovuto studiare nell'azzeramento totale dei servizi disponibili, soprattutto quelli a distanza, che sono rimasti a distanza ma non solo. E resilienza è un po' questo termine che si chiede a una ricerca che dovrebbe adattarsi alle domande della società industriale in crisi e che a cui è richiesta una competizione dentro gli schemi della riproduzione di questa società, dove non è possibile innovazione. La ricerca funziona con domande a progetto, missioni, destinazioni che sono scritte prima e che non possono essere ripensate in nessun modo, quindi secondo noi nessuna innovazione è possibile dentro questo schema che trasforma ogni docente, ogni ricercatore in una sorta di manager che deve procacciare fondi, e la ricerca vincente è quella che risponde alle domande di policy e di profitto fatte dall'Unione Europea e dal mercato. Ecco, rispetto a tutte queste cose, appunto, diciamo, voi siete nati come realtà nel periodo subito dopo l'inizio della pandemia. Molti di questi temi che si sollevano nella lettera sono tematiche che appunto appartengono alla questione della ricerca dell'università già da prima della pandemia. Qual è stato l'impatto però di quest'ultimo anno? L'impressione che noi abbiamo avuto e condiviso è che sia stata una accelerazione. Tutti questi processi erano già in corso. L'introduzione della didattica a distanza, per esempio, era già in discussione da tempo, e da tempo si stabilivano le percentuali di didattica a distanza erogabile dentro i corsi di laurea, non solo delle università telematiche ma anche di quelle non telematiche normali, insomma. Così come l'indirizzo della ricerca è già presente da anni, visto che praticamente i piani europei sono, i piani di finanziamento europei sono una delle fonti principali e sempre più quasi l'unica di accesso alle risorse. Evidentemente la pandemia ha prodotto una forte accelerazione, ed è un'accelerazione che letteralmente passa sopra a tutta una serie di condizioni materiali dentro le quali si svolgono la didattica, la ricerca e l'insegnamento. Sul versante studentesco, che vi fossero tutta una serie di insufficienze strutturali che riguardano gli spazi, le aule, aule sovraffollate è una cosa che è stata denunciata continuamente, così come i limiti delle aule studio, così come la difficoltà di accedere alle borse di studio, i limiti delle borse di studio e tutto il resto, tutte queste cose sono state accelerate, mostrando peraltro delle contraddizioni ben evidenti. Per fare un esempio, si chiede per l'accesso alle borse l'ISEE delle famiglie, delle studentesse e degli studenti del 2018, che non può essere indicativo di alcunché, visto che la crisi nell'ultimo anno ha reso povera letteralmente centinaia di famiglie, e l'ISEE del 2018 non ne può dare conto. E come si fa a garantire di maturare i crediti necessari alla borsa di studio o a rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio, se moltissimi non hanno avuto accesso neanche ai libri, perché tornati nelle loro città di provenienza hanno avuto difficoltà sia economiche sia relative all'accesso ai servizi per farlo? Sono domande che richiedono delle risposte, ma anche risposte all'altezza del problema. La DAD, per esempio, ha dato accesso, sono aumentate tantissimo le immatricolazioni, e questo è il paradosso per cui dà la possibilità di fare l'università a chi non ha i soldi per vivere a Bologna, per esempio. È difficile dire DAD no in queste condizioni, però se si è deterritorializzato l'insegnamento, allora deve essere in carico alle università o di aumentare le borse per rendere possibile la presenza, oppure, non perché si escludano, ma contemporaneamente, di pensare a un accesso ai servizi che non sia soltanto stanziale bolognese, e a una revisione delle tasse che tenga conto del fatto che moltissime studentesse e studenti non utilizzano i servizi che comunque continuano a pagare. Contiamo che il 5 maggio sia possibile vedersi in piazza, come effettivamente faremo. Chi vuole seguire trova aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul blog, e il 15 aprile ci sarà una tavola rotonda di discussione su tutti questi temi, non soltanto in bolognese online, naturalmente.